Capitolo 87esimo. Arione. Arione di Lesbo, figlio di Posidone e della ninfa Onea, era maestro nell'arte di suonare la lira e inventò il ditirambo in onore di Dioniso. Un giorno il suo protettore Periandro, tiranno di Corinto, gli diede, seppure a malincuore, il permesso di recarsi a Tenaro, in Sicilia, dove era stato invitato per partecipare a una gara musicale. Arione vinse il primo premio e i suoi ammiratori lo colmarono di doni così ricchi da destare la cupidigia dei marinai che dovevano riportarlo a Corinto. «Ci dispiace, Arione», disse infatti il capitano della nave, «ma tu devi morire». «Quale delitto mai commesso?» chiese Arione. «Sei troppo ricco», replicò il capitano. «Risparmia la mia vita e ti darò tutti i miei beni», supplicò Arione. «Appena giunto a Corinto ti scorderai di questa promessa», rispose il capitano. «E anch'io farei lo stesso se fossi nei tuoi panni. Un dono che si concede per forza non è un dono». «E va bene», gridò Arione rassegnato, «ma almeno lascia che io canti per l'ultima volta». Ottenuto il permesso del capitano, Arione indossò le sue vesti più belle e, ritto sulla prua della nave, invocò gli dei con accenti appassionati e poi si gettò in mare. La nave si allontanò rapidamente. Il canto di Arione, tuttavia, aveva attirato un branco di delfini amanti della musica. Uno di essi prese Arione in groppa e raggiunse il porto di Corinto alcuni giorni prima che la nave dell'avido capitano vi gettasse l'ancora. Periandro si rallegrò all'udire il racconto del miracoloso salvataggio e il delfino, rifiutando di staccarsi da Arione, lo seguì a corte, dove soccombette ben presto a una vita di mollezze. Arione lo onorò con uno splendido funerale. Quando la nave toccò il porto di Corinto, Periandro mandò a chiamare il capitano e l'equipaggio e, fingendosi in ansia, chiese notizie di Arione. «È stato trattenuto a Tenaro», rispose il capitano, «dalla sontuosa ospitalità di quella gente». Periandro fece loro giurare sulla tomba del delfino che dicevano il vero e poi, all'improvviso, li portò dinanzi ad Arione. Non potendo più aggrapparsi ad altre scuse, furono tutti giustiziati seduta stante. Apollo in seguito pose tra le stelle l'immagine di Arione e della sua lira. Arione non fu il primo uomo salvato da un delfino. Un delfino infatti salvò Enalo quando si tuffò da una nave per raggiungere l'amata Fineide, che per ordine di un oracolo era stata gettata in mare per placare Anfitrite. I figli di Pentilo infatti guidavano una spedizione diretta a Lesbo per colonizzare l'isola. Anche Fineide fu salvata da un delfino e un quarto delfino salvò Falanto, che stava per affogare nelle acque del mare Criseo mentre era diretto in Italia. E parimenti Icadio, il fratello cretese di Iapigio, quando naufragò durante un suo viaggio verso l'Italia, fu guidato da un delfino fino a Delfi e diede alla località il suo nome, poiché il delfino altri non era che Apollo. Sia Arione sia Periandro sono personaggi storici vissuti nel VII secolo avanti Cristo e un frammento dell'inno a Posidone di Arione è giunto sino a noi. La leggenda poggia forse in parte su un episodio reale. Il canto di Arione attirò un branco di delfini. I delfini e le foche sono notoriamente sensibilissimi alla musica, e i marinai desistettero allora dall'ucciderlo per derubarlo. In parte fu ispirata dalla errata interpretazione di una statua raffigurante il dio Palemone che, con la lira in mano, giunge a Corinto in groppa a un delfino. A questa storia fu poi dato un carattere mitico. Arione venne descritto come figlio di Posidone, tale infatti era il suo omonimo, il selvaggio cavallo Arione, e diede il suo nome alla costellazione della lira. Pausania, storico posato e veritiero, mette in dubbio ciò che Erodoto narra di Arione per sentito dire, ma afferma di aver visto con i propri occhi a Poro Selene un delfino che era stato bastonato dai pescatori e in seguito affettuosamente medicato e guarito da un ragazzino a correre al richiamo del ragazzino stesso e lasciarlo cavalcare sulla sua groppa. Ciò ci lascia supporre che l'avvento del fanciullo dell'anno nuovo a Corinto fosse inscenato con l'aiuto di un delfino addomesticato dai sacerdoti del sole. Il mito di Enalo e di Fineide fu probabilmente tratto da una raffigurazione di Anfitrite e Tritone a cavallo di delfini. Enalo fu associato da Plutarco al culto del polipo, e il suo nome ricorda quello di Edipo, il corinzio fanciullo dell'anno nuovo, che gli rappresentava a Mitilene come Falanto lo rappresentava in Italia. Taranto, figlio di Posidone e della figlia di Minosse Satirea, dei Satiri, era il fanciullo dell'anno nuovo che giungeva a cavallo di un delfino a Taranto, città da lui fondata e dove aveva un santuario eroico. Falanto, il fondatore della Taranto dorica nel 708 a.C., adottò il culto del delfino praticato dai siculi cretizzati che trovò sul posto. Il nome di Icadio, che significava ventesimo, si riferisce forse al giorno del mese in cui si celebrava il suo avvento.